la strada arroventata dal meriggio, col sole alto in quella fin di maggio, le case in un ammanto d'oro greggio. Tu eri la regina ed io il tuo paggio, o villanella ti campavo spesso, non mi levare più gli occhi di dosso. Amami per la vita come adesso, e tu giurasti sopra un fiore rosso, un garofano rosso, che con un bacio al cuore mio ti unì. Un garofano rosso, che sigillò nel sole il primo sì. Poi la vita ti cambiò e lontana ti portò, e perdesti la bontà nel clamore della città. Un garofano rosso, nascosto sopra il cuore mi restò. Un garofano rosso, come la bocca tua che mi ingannò. La vita ti cambiò e lontana ti portò, e perdesti la bontà nel clamore della città. Un garofano rosso, nascosto sopra il cuore mi restò. Un garofano rosso, come la bocca.